Cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Eh sì, signori, ha ragione Philippe T, il più celebre funambolo al mondo. Lui che su un filo camminò tra le torri gemelle, mica un altro. Siamo tutti in perenne equilibrio, siamo sospesi, eppure in cammino, passo dopo passo, siamo tutti funamboli. Ma tutti quanti, lo sei tu, mamma, che hai appena accompagnato i bambini a scuola, stai già facendo le mille acrobazie quotidiane tra lavoro e famiglia. Tu artigiano, tu operaio, dipendente pubblico, libero professionista, imprenditore, dirigente, disoccupato, tu straniero, migrante, tu prete, professore, medico, parrucchiera, tassista, agricoltore, siamo tutti in cammino sul filo. Oh, guardate che per alcuni è sinonimo di rischio, per me è un segno di magia. E questa magia oggi la racconteremo. Dalle 9 alle 11, sì, l'orario è diverso, è nuovo per quel che mi riguarda, sono Alessandro Milan. Oggi apriamo le porte all'Italia dei funamboli, e dunque di tutti voi, anche di tutti noi, eh. Pensate, funambolo perfino Peter Bescapeni, io del Gia d'Alpino, ce lo siamo trascinati qui a quest'ora. Anche Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, anche il neoacquisto al calciomercato Elisa Pancaldi, anche lei è un po' funambola, l'abbiamo tirata dentro. E insomma, siamo funamboli tutti quanti. E io in questo cammino non sono solo, perché voglio essere un po' sicuro di mettere i piedi uno dietro l'altro. E allora abbiamo chiamato insieme qui da Roma, dall'urbe, dalla grande capitale, accolta nella Milano senza nebbia per lei, Veronica Gentili. Ciao Veronica. Buongiorno. Io ho camminato sulla fune per arrivare fino a qui e cercare adesso di metterti i bastoni tra le ruote, ovviamente. Ecco, mi sembra giusto. L'abbiamo accolta, tipo, è arrivata tipo noi, io volevo un savoir qui col completamente, ho col chiamato valigione. E ho detto, ma che cosa devo portarmi a Milano? Ma me lo porto o no il colbacco? Vabbè, per ora non serve, per ora non serve. Insieme io, Veronica Gentili, e poi c'è un altro funambolo che comparirà tra un po', perché lui è un po' pigro. Ma si sentono dei rumori già, di qualcuno che si muove sulla fune dietro. È comico, fa teatro, fa le serate, quindi lui arriverà un po' più tardi. Non svegliamo. Ma per troppo, carità, evitiamo ora. Evitiamo. Vabbè ragazzi, insomma, parleremo di tanto. I contatti sono i soliti: 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e anche per i vostri whatsapp, soprattutto in audio. Mi raccomando, se volete mandare critiche a Veronica, elogi, ecco, cominciate a me, subito a mandare improperi a me, che è un'attività che viene bene. Se volete starci vicini, dire che fa tutto schifo quello che dirà il funambolo che arriverà alle 9.45, fatelo pure, insomma, in audio ovviamente, che è la cosa migliore, oppure via WhatsApp potete mandarlo anche in testo, così come siamo in diretta su Facebook. Fai ciao con la manina, Veronica, quelle sono le telecamere, guarda, quella è la tua che in radio. Buongiorno. Si vede benissimo questa cosa, c'è anche un terzo funambolo dietro di noi che si agita, non lo so. Per chi non la stesse vedendo, vorrei raccontare la tua camicia a fiori, sembra tornato dalle Hawaii. Ho detto, mi presento con un mazzo di fiori, non ce li ho, metto una camicia, capito? A fiori, nemmeno un mazzo di fiori, e oltretutto devo anche vedere questa camicia, aiuto. In realtà parleremo di tante cose, vi faremo anche sorridere, visto che siamo in onda fino alle 11, magari più avanti. Prima però vogliamo raccontare, insomma, il cuore dell'Italia, tante tematiche anche vive che ci portano nelle prime pagine dei giornali che trovate in edicola. E allora, Veronica, sei pronta? Vogliamo cominciare? Cominciamo con un argomento che è stato un po' alla base delle vicende estive e che continua a tornare, ahimè, nella storia del nostro paese. Cari funamboli, ci siamo, si parte. Siamo sempre additati e dicono sempre, abusivi, ma se noi siamo nati qui. Siamo di fronte a un territorio dove l'abusivismo è un problema, con case costruite in fretta, con cementi impoverite, e sono proprio queste quelle maggiormente soggette a danni in caso di terremoto. Di questo abusivismo edilizio noi abbiamo già pagato lo scotto abbondantemente in termini di immagine, e francamente respingo con forza al mittente a pseudo ambientalistiche ogni qualvolta si verifica dice una cosa del genere, si tira in ballo questo argomento. È chiaro che però non dobbiamo subito, ecco, dire, far passare il messaggio che siamo dei banditi. Se tu non ci dai l'allaccio dell'acqua, noi non possiamo vivere in quella casa. Quindi non lamentarti che noi siamo abusivi, perché noi siamo abusivi leciti. Ragazzi, questa siamo abusivi leciti, Veronica, forse è la cosa più straordinaria. Ma metà della discussione, infatti, Alessandro, si focalizza attorno al concetto di abusivismo di necessità, che è stato un po' alla base di tutte le polemiche che ci sono state quest'estate e che è tornato molto in voga a ridosso della campagna elettorale. Non so se ci rendiamo conto, l'abusivismo di necessità, però ci porremo anche questo problema esiste. Tra l'altro vogliamo salutare un ascoltatore, ci scrive su WhatsApp, ci ascolta, e sai da dove ci ascolta, cara Veronica? Da Chennai, in India. La magia della radio, la magia della radio, ci ascolta tutto il mondo. Che bellezza, e ci ospita anche. Anche se non lo so, però io, ti paghi, io ti paghi subito mi avvantaggio, perché qui abusivismo di qua, abusivismo di là, mi porta avanti subito. Allora, signori, sappiate che gli abusi, siamo un paese abusivo, è inutile negarlo. È vero che la maggior parte degli abusi sono quello che si fa la veranda e poi se la condona, quello che si fa il sottotetto e poi se lo condona, cioè, io non, per carità, è tutto grave, l'illecito è tutto grave, però non sono gli abusi quelli che poi magari portano anche ad avere case non perfettamente in norma per quel che riguarda i terremoti. Sono gli abusini, vogliamo chiamarli così. Ecco, però la parola abusino, esattamente come abusivismo di necessità, rischia di essere poi una parola molto pericolosa, e i conti vengono fatti ogni volta che si verificano delle tragedie, come è successo per esempio quest'estate a Ischia, perché l'argomento è riemerso nell'arco dell'estate. Sì. La prima tranche è stata relativa a De Luca e alla ipotesi di condoni, diversamente condoni in Campania, uh-huh. E successivamente se ne è parlato molto per le regionali in Sicilia, quando anche i 5 Stelle Di Maio hanno parlato nuovamente di abusivismo di necessità. Quindi da lì si sono aperte le polemiche, perché sul tema dell'abusivismo c'è sempre questa corrispondenza tra le esigenze della gente, del popolo, della collettività, con quelle legge, della politica e anche della legge. Sì. Sì, perché lì c'è una corrispondenza, e sappiamo anche che l'abusivismo è un tema che porta moltissimi voti, cioè essere in qualche modo conniventi. Ricorderò magari tra poco anche la storia dell'ex sindaco di Licata di quest'estate, che è andata su tutti i giornali. Però, cara Veronica, dando un dato, vogliamo iniziare a introdurre i nostri primi due ospiti, i nostri primi due funamboli. Tra il 2013 e il 2011 sono state mappate in Italia 258.000 case abusive. Professor Berdini, buongiorno. Buongiorno a voi. Paolo Berdini è urbanista, è un esperto da anni di questo settore, e il grande pubblico forse lo conosce anche perché ha fatto per un certo periodo l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma. A casa. Sì, a casa di Veronica Gentili, casa tu perfettamente e legale. E ti telefono casa. Tanto, Paolo Berdini, quando lei sente parlare di abusivismo di necessità, come reagisce? Reagisco con insofferenza, perché dal 1985, da quando fu fatta con questa motivazione la legge Craxi, il primo condono, l'abusivismo di necessità non c'è più, perché la società italiana è evoluta, è diventata quello che sappiamo, quindi non c'è più la parte di necessità, c'è il modo per frodare lo Stato, per non pagare tasse, per utilizzare imprese al nero, c'è insomma l'arricchimento alle spalle della collettività. Quindi insomma, per lei è andrebbe proprio abolita come. Ma secondo lei invece il ravvedimento operoso, quello di cui ha parlato Di Maio, ma di cui si è parlato spesso, no? In qualche modo poter mettere le pezze a quelli che sono stati degli abusi precedenti, è un'ipotesi verosimile? È un altro modo per chiamare il condono, è vicino all'abusivismo di necessità, c'è il ravvedimento operoso. Poi chiamiamolo con lo stesso modo, è quello che dicevate voi, cioè qui c'è una materia che pesa dal punto di vista elettorale. Allora comprendo il vicepresidente della Camera, anche se insomma lui ha una carica istituzionale, dovrebbe stare attento, che legalizza un'altra volta un condono, cioè il quarto condono, se c'è il ravvedimento operoso. Però a novembre si vota in Sicilia e tutto va bene. E sappiamo che è una delle regioni, come dire, più investita da questo problema. Ma infatti un altro degli aspetti è la differenza che c'è, la quantità di abusi che ci sono al sud rispetto al nord. Si parla quasi di due Italie, no? Le quattro regioni in cui ci sono le mafie sono quelle dove ci sono stati maggiori abusi edilizi. E questo secondo lei da cosa dipende? Dipende dal fatto che non abbiamo saputo, ovviamente non parlo per noi, non si è costruito lo Stato, quello che al nord invece era stato costruito con la storia dei popoli del nord, con l'unificazione certo. d'Italia il sud non raggiunge i livelli di compiutezza del censo dello Stato, cioè l'intervento dello Stato che vieta di fare i buchi. Sì. Non ci siamo riusciti e dove non c'è lo Stato, ma certo, dove non c'è lo Stato non ci sono le regole. Però, caro professor Berdini, vogliamo introdurre anche un avvocato che ci sta ascoltando. È un avvocato che ha lo studio a Roma e anche a Napoli. È Michela Scafetta. Avvocato, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi chiamato. Allora, avvocato Scafetta, noi abbiamo letto sui giornali, però ci deve dire confermare o smentire. Lei ha una caratteristica particolare, cioè è specializzata nel sanare abusi edilizi. È corretto se la mettiamo così? No, non è corretto. Ho fatto il classico intervento subito, a gamba tesa. Subito, Alessandro, così ti volevi buttare. Per favore, perdoni. Ci dica lei. È molesto. No, diciamo che il titolo di quell'articolo era molto fuorviante, nel senso che si parla di, ci sono avvocati che stanno a abusi edilizi, io faccio consulenza in materia di diritto urbanistico, mi sono specializzata in questa materia, però un discorso è sanare un determinato tipo di abusi edilizi, un altro è sanare e legittimare quella che è la pietra inaccettabile del nostro paese, che è quella dell'abusivismo edilizio. Beh, ho capito, scusi, mi faccia capire, consulenza in abuso edilizio, cioè parliamo chiaro, io ho fatto un solaio abusivo, ho fatto una mansarda abusiva. Io la chiamo e dico: avvocato, senta, ci sono gli estremi per sanare? Lei mi chiama prima di fare questo servizio. Proprio, in maniera tale che lei ci spiega come fare l'abuso senza che diventi un abuso, questo in sostanza. Ma no, se fosse possibile farlo senza che diventi un abuso. Ci sono, insomma, oppure lo faccia e poi lo saniamo grazie a queste leggi del 72, del 1948, codice bis, articolo 48, questo fa. No, non proprio così. Allora, diciamo che la situazione è un pochino diversa, nel senso che il cliente viene da me e mi dice: guardi, io avvocato vorrei costruire, diciamo un caso molto eclatante, sì. vorrei costruire un villaggio vacanze in Puglia. Sì. Ho un terreno che è vincolato, c'è cioè un vincolo paesaggistico, vincolo ambientale, cioè diciamo un terreno blindato. Cosa posso fare io? Perché io rispondo: niente. Non puoi fare nulla, perché a meno che anche se uscisse un nuovo condono edilizio, però tu non andresti mai a sanare una cosa così abusiva. Cioè parliamo di un abuso totale certo. e insanabile. In ah, modo. Ok, però se arriva uno col solaio, con la mansarda, con il locale. Ma guardi, il discorso del solaio della mansarda può essere valutato sotto altri profili. Pensiamo al discorso di utilizzare il piano casa o altri strumenti urbanistici. Se viene il cliente e mi dice: guardi, io c'ho un immobile e l'ho diviso in maniera diversa da quella dalla piantina che è depositata al catasto, benissimo, allora si possono trovare gli strumenti per sanarlo. Certo. Avvocato, secondo lei è possibile muoversi su questo terreno, perché in qualche modo da parte della politica c'è una disponibilità, non la vogliamo chiamare connivenza, più però una politica, io direi da parte del legislatore, guardi, la legge, tendenzialmente da lì viene. Da tutto lì viene. Certo, quando io mi sono laureata era entrato in vigore il testo unico per l'edilizia, che sembrava essere una somma di tutte le leggi in materia urbanistica che avrebbero finalmente dato un indirizzo al nostro paese. Sì. Tempo 8 anni, 9 anni, il legislatore è tornato a operare nuovamente sulla materia urbanistica introducendo altri strumenti, la DIA, la SCIA, la CIL, la CILA, eccetera, eccetera. Ovviamente in tutta questa confusione normativa e legislativa, i primi che comunque non capiscono o fanno finta di non capire sono i tecnici. Ovviamente in un bailamme di normativa così complessa è molto facile per chi vuole ridicolare inserirsi nelle maglie di questa normativa così un po' incerta. Sì. E quindi però ci faccia capire, lei avvocato giustamente dice: io non è che vengo a dire e non lo farò mai e non lo può fare, costruiamo un villaggio abusivo, questo sì, però ci sta facendo capire che il piccolo abuso o la piccola costruzione fatta fuori legge lei aiuta a sanarla, questo quella sì, ma le dico di più, questo villaggio, volevo concludere perché è divertente la questione, questo mi viene questo cliente e mi dice: guarda, io vorrei fare questo. Ah, è successo, guarda, veramente? Non puoi fare, no. È successo? Assolutamente sì. Ah. Voglio, nel mio studio di Napoli questo l'ho ricevuto. Perché non la città abusiva? Vabbè. E lei che gli ha detto? Ovviamente è il Gargano, posso anche dirle il Gargano, non posso andare oltre. Allora, io gli dico: guarda, purtroppo dal punto di vista urbanistico edilizio non puoi fare nulla perché è tutto abusivo, quindi non lo puoi sanare. Sì, però io ho già parlato col sindaco e mi ha detto che se, cioè, quindi questo era già venuto da me, bello carico. Se io poi faccio un ricorso al TAR e non chiedo di cautelare, non mi blocca i lavori. Eccolo, okay? Guardi, aspetti, si fermi lì, professor Berdini, non so se ha sentito, se ha colto. Purtroppo sì. Quante di queste storie le ha letto? Il sindaco mi ha già assicurato che se poi faccio ricorso al TAR non succede nulla. Così. Cioè, istigazione al ricorso al TAR, se possiamo dire, un nuovo reato. Cioè, dall'istigazione a delinquere all'istigazione al ricorso al TAR. Certo, perché però c'è questa rincorsa al TAR? Perché le normative, a parte che forse non sono così complicate, insomma sono abbastanza chiare ultimamente, ma non vengono applicate, quindi è chiaro che un avvocato bravo riesce a trovare quella contraddizione nel corpus legislativo che permette di bloccare tutto, tant'è che questo è il grave motivo per cui non si fanno le demolizioni in Italia e per cui, guardate un po', c'è in discussione ancora in questi giorni il disegno di legge Falanga. Io di questo le volevo chiedere, professore, se lei ci spiega bene Falanga. Che cos'è esattamente questo, perché è stato tanto contestato questo disegno di legge. So che lei è stato uno dei firmatari che si è messo contro, insomma, questo disegno di legge. Senatore Falanga, noi l'abbiamo ospitato anche prima dell'estate, lui dice non sono per gli abusi, sono per l'abusivismo. Oltretutto il senatore aveva detto che si sarebbe dimesso a giugno perché c'era stato un episodio di un uomo che aveva avuto un infarto durante un tentativo di abbattimento delle case, e da lì il senatore ha detto io mi dimetto. Però professore, ecco, ci dica questa proposta di legge che giace in Senato del senatore Falanga, primo firmatario. Falanga fa la stessa parte, cioè se voi trovate una persona che dice io sono a favore dell'abusivismo, c'è un milione di euro in premio. Quindi, io la trovo sicura allora. Quindi Falanga dice che è contro l'abusivismo. In realtà, sfruttando proprio quelle contraddizioni di cui parlava l'avvocato, lui dice, guardate, non è più la magistratura, quindi ritorno al concetto proprio del funzionamento dello Stato, che decide chi demolire o no, secondo ovviamente, con grano salis, secondo legge fa la magistratura, ma la politica dice quali sono gli ordini di priorità di demolizione dell'abusivismo. Pensate un po', a quel punto è di bloccare tutto. Ricordiamo. Ma oltretutto mancano i soldi, questo è un altro degli aspetti questo importanti. Questo è un altro problema. Cioè, alla magistratura, questo è un altro problema non secondario. Professor Berdini, il presidente della Regione Campania De Luca varie volte ha detto anche i materiali di risulta che verrebbero dall'abbattimento di tutte le case abusive. Lui ha usato questa espressione e dice che facciamo? Compriamo un'isola in Grecia e li mandiamo tutti là, sa che De Luca è uno. Cioè, però il problema c'è, perché abbattere, che ne so, migliaia di case, che si fa col materiale di risulta? Non è che uno lo prende e lo butta nella spazzatura. Sa quanto, come facciamo a chiudere per sempre l'abusivismo se davvero ci abbiamo pochi mesi a disposizione. Adesso ce lo dice. C'ha la ricetta. Acquisiamo i beni. Facciamo così De Luca è contento, non compra l'isola, non ci mette i soldi suoi, eccetera. Acquisiamo i beni, perché uno dei motivi dell'abusivismo è il fatto che io guadagno sulle spalle della collettività. Ma mi faccia capire, cioè noi Stato acquisiamo un bene illegale, perché è nato illegale? È un bene illegale ma sanabile attraverso alcune procedure, no? A questo punto io ho tolto l'acqua dall'acquario. Perché chi faceva il furbo, perché poi comunque ci aveva intestata quella proprietà illegittima, forse poi vediamo se il notaio stipula, vediamo tutto, però comunque era mia, a quel punto lui non c'ha più nulla in mano. Allora, in questo modo, in Francia negli anni 20 hanno rotto l'asse dell'abusivismo, quello sì di necessità, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale. L'hanno rotto con questa norma semplicissima, certo. L'acquisizione immediata al patrimonio collettivo. Io volevo capire una cosa, però è possibile stabilire una connessione diretta tra l'abuso, tra il cemento illegale e quelli che sono i rischi di sicurezza per il territorio? Cioè, c'è un elemento casuale o c'è una connessione diretta secondo lei, professore? No, c'è una connessione diretta, perché ovviamente chi fa un edificio da cielo a terra, insomma appunto una piccola mansarda, ma chi fa un edificio da cielo a terra è un'impresa che non è collocata nell'albo, no, delle associazioni di categorie, quindi non c'ha certificazione, non usa materiali idonei, non usa manodopera specializzata, e quindi è l'Italia nera, è l'Italia che deve scomparire. Guardate, se facciamo scomparire l'abusivismo, è l'Italia che forse volta un po' pagina e dice vabbè, non dobbiamo fare i furbi, dobbiamo far funzionare l'amministrazione pubblica, guarda, e lo Stato. Lei ci spoilera una delle nostre campagne che vogliamo lanciare da oggi più avanti, dopo le 10, che defurbizziamoci, lanceremo una grande campagna. Non hai resistito, l'hai già detto. Ha fatto l'assist il professor Berlino. No, tra l'altro vogliamo ricordare una cosa, io non l'ho detto, ma c'è un numero di telefono per chi vuole chiamare, 800 24 0024, è il solito, oppure potete scriverci anche una mail a funamboli@radio24.it. Avvocato Scafetta, ci vuole concludere la questione, perché un ascoltatore via WhatsApp ci dice: ma come, gli è arrivata a chiedere, il sindaco mi ha detto che poi fai ricorso al TAR, non c'è già materiale per denunciare una decisione del genere, se le viene un cliente ovviamente a dire così? Allora, esiste il materiale per denunciarlo, il problema però va sempre a monte, perché quando tu fai una denuncia, quindi dal punto di vista penale, perché noi dobbiamo distinguere l'abusivismo dal punto di vista penale e amministrativo. Penale, e quindi alla gente poco importa, perché io patteggio, perché sono reati che si possono patteggiare, quindi il problema non si pone. Quindi col patteggiamento tu non hai risolto il problema dell'abusivismo edilizio, perché io pago, ho patteggiato e quindi non mi faccio il processo. E questo è il penale. Dal punto di vista amministrativo, come diceva il professor Berlini giustamente, bisognerebbe valutare un discorso di acquisizione al patrimonio comunale. Io mi sono trovata per esempio in situazioni molto numerose relative ai castelli romani, dove comunque ci sono state svariate possibilità di acquisizione al patrimonio del comune, ma non è stato fatto nulla. Quindi si diceva: va bene, allora c'è l'ordine di demolizione, il comune non ha i soldi per pagare la demolizione, e questo è un classico. Guardi che però, avvocato, e non vogliamo tornare a quest'estate, l'abbiamo solo accennato, il sindaco ex di Licata, colui che è finito sotto scorta, minacciato, ha detto al procuratore, che gli ha detto: questi sono i soldi, ha iniziato ad abbattere le case, è stato minacciato, ha subito attentati ed è stato sfiduciato dal proprio consiglio comunale. Quindi chi vuole lo può fare. No? Noi non dimentichiamoci che ci fu proprio il sindaco di Pollica, nel Salernitano, che nel 2010 è stato assassinato per questa ragione. Quindi purtroppo la situazione è quella che è chiaro, ci vogliono dei coraggiosi. Intanto, avvocato, oltretutto, avvocato, lei mi conferma il fatto che c'è una bizzarra anomalia, che l'abuso di necessità cosiddetto viene fatto per lo più in luoghi che invece hanno il vincolo paesaggistico e sono luoghi di straordinaria bellezza naturale. Perché avere una villa nel parco dove è vietato, è la necessità, bello, no? È poi affittarlo bene o avere una straordinaria vista davanti, no? C'è anche questo. Ma immaginiamo tutte quelle case che a vista d'occhio si vedono sul Vesuvio. Anno lì c'è un'altra questione. Le costruzioni che vanno sempre più sopra verso il cratere. Esatto. E chissà perché, ma ogni anno aumentano. Quindi io sono assolutamente contrario all'abuso di necessità. Però diciamo, lei si è specializzata nel dare le consulenze giuste a chi ha una difficoltà con la legalità e con lo Stato, a dire: guarda, ti aiuto io, faccio l'avvocato. Però guardi, professor Berdini, c'è qua Veronica Gentili che non si tiene, lei è di Roma. Scusatemi. E quindi se non le fa una domanda sul suo assessorato a Roma. Non vorrei, ma lei capisce, professore, già sono qui fuori sede, mi hanno portato nella nebbia. Ma professore, adesso che è passato il tempo, no? Mi dica un po', ma che è successo con la Raggi? Dai, ce lo dica, su. Adesso è passato il tempo, si sa, no? A bocce ferme. Sì, le bocce si stanno fermando. Si sono fermate. Quindi questa è una piccola informazione che vi do, nel senso che l'esperienza va rimessa in linea. Quindi sto ragionando, sto scrivendo un libro. Cioè, che succede? Sta scrivendo un libro su questa vicenda? Sulla mia città, perché questa città merita molto di più di quello che sperava la città quando ha votato per 5 Stelle. Cioè, chi ha votato in 5 Stelle? Pensate che in alcune periferie d'Aosta hanno preso il 70%. Quindi è un po' deluso, insomma, da questa esperienza. Certo, perché bisognava dare il senso proprio del cambiamento. Allora non si fa il senso del cambiamento instaurando l'ennesima trattativa per fare lo stadio. Sì, forse togliamo 100.000 metri cubi, che sono l'Hilton, diceva Antonio Cederna, e quindi... Non si fa. Uno deve essere rigoroso. L'ha più sentita la Raggi? No, immagino di no. l'ha più sentito. No, certo. No. Ma quello sgradevole episodio con cui avete concluso la vostra collaborazione, no? In realtà me lo dica adesso, me lo confidi a me che siamo soli. Sì, è stato veramente nessuno. Un giornalista troppo pedante e zelante che l'ha messa in croce, come si dice? No, oppure no, lei era saturo? Mascalzone, non lo chiamate giornalista, io l'ho chiamato più volte Mascalzone perché non si fa. Cioè lui aveva il telefonino che io non so usare come registratore, quindi lui non ha detto che registrava, quindi lui non è un giornalista, lui è un delinquente, che è un'altra categoria della vita. Ha fatto leva sulle sue deficienze tecnologiche per estorcerle una confessione. Diciamo così. Va bene. Professor Berdini, noi la ringraziamo. Grazie Paolo mille. Berdini, così come ringraziamo l'avvocato Michela Scafetta, i nostri primi due funamboli, e funambola anche la nostra responsabile dei programmi Alessandra Scaglioni, che si è materializzata lì dietro al vetro a dire con due occhi da spillo a pensare: ma sarà una trasmissione che funzionerà o no? E non lo sappiamo neanche noi. Questo non è bello, possiamo ancora non dirlo. Però dopo la pubblicità voi scriveteci 349-238-6666. Parleremo invece della vicenda stupri, perché purtroppo così bisogna essere brutali a dirla, a Rimini sono stati presi quelli che sono, secondo gli inquirenti, secondo i poliziotti, assolutamente irresponsabili di quel duplice stupro terribile a una coppia polacca, una donna polacca, l'aggressione all'uomo, e a una transessuale peruviana. Ci chiederemo se più stranieri uguale più stupri, perché c'è una persona che ci racconterà dei dati da cui partiremo. E forse anche qualche considerazione sulla quantità di stupri che ci sono in questo paese. Esatto, poi c'è un funambolo che è rientrato in studio qui tra poco, è il terzo funambolo, che non lo so, vedo che passeggia. Ma cos'è filo. Quella figura col cappuccio nero sì, in testa? Sì, ci vorrà fare un po' sorridere, vabbè. Boh, lasciamolo che lì, paura. Non disturbarlo. I funamboli. Il problema di concedere i condoni è che dopo devi garantire gli allacciamenti di vari servizi, quindi un costo ulteriore per la collettività. Ciao, sono Alberto D'Adesio, volevo augurarvi tante belle cose per il nuovo programma, spero che sarete simpatici come siete sempre stati, e comunque, come dice la Gentile, dai sciocchina, dacci sotto che ci divertiamo un po'. Gentili, vorrei giusto, no, vabbè, sciocchina, vorrei sì, precisare, no, perché non l'ho detto finora, avevo avuto un messaggio minatorio da un ascoltatore, dice non cominciare con sciocchina, io sì. Mi sono tenuta finora, ma non prometto di riuscirci. Sono i nostri ascoltatori al 349-238-6666, è il numero WhatsApp da utilizzare, vedete che bella qualità di audio, tra l'altro via WhatsApp un ascoltatore ci dice ci sta ascoltando da Dubai, è il nostro grande ascoltatore anche da lì Dubai. Ci può ospitare? Ci abbiamo tutti in rima, Chennai, Dubai. Così basta, le ho finite. Fermatelo. No? Non lo so, le ho finite. Fermatelo. No, è che Veronica, adesso dobbiamo introdurre un argomento molto molto annoso. Annoso e pesante, perché la cronaca racconta da Rimini che sarebbe, bisogna usare il condizionale, sarebbe stata sgominata la banda degli stupratori della donna polacca, con l'aggressione anche al compagno, all'amico che è stato derubato, poi l'aggressione alla trans peruviana. Bisogna sarebbe, usare il condizionale, insomma, però in realtà neanche troppo, perché loro, da come stanno le cose, insomma, diciamo che due si sono autodenunciati nello esatto. Specifico, l'altra ha ammesso, ha provato a negare il ragazzo, l'ultimo che è stato preso, che era definito il capobanda, no? L'unico maggiorenne, tra sì. L'altro, del congolese. E io lo dico, adesso lo so che Veronica, richiedente asilo, dato di fatto, cronaca, sì. Polizia. Questo richiedente asilo. Assolutamente vero. Anzi, respinta la richiesta d'asilo 2 anni fa a lui, ma con un altro permesso umanitario per stare 2 anni e poi vedere. È chiaro che questo alimenta e già alimentato le solite polemiche, le solite discussioni, se più stranieri uguali più stupidi. Questo è evidente. Poi anche il tipo di racconto che se ne fa di queste storie, compreso quello che facciamo noi giornalisti, serve a alimentare queste polemiche o cercare invece di restituire loro la forma più idonea, senza necessariamente finire in partigianerie nella discussione tra curva sud e curva nord. Però noi qui a Funamboli piace, al di là della politica che c'è eccetera, far parlare i protagonisti, quelli che hanno delle cose da dire, che hanno dei dati, che hanno dei numeri che ci possono fornire la base poi su cui ognuno poi può fare i propri ragionamenti. Per questo vogliamo salutare Raffaele Rio, che è presidente di Demoscopica, che salutiamo. Buongiorno Rio e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi, ecco, buongiorno. L'occasione per farvi gli in bocca al lupo per la trasmissione. Crepi, grazie. Allora, Demoscopica ha fatto una ricerca molto interessante, è stata ripresa dai giornali nei giorni scorsi. La domanda che le faccio io, e lei ha i dati, e la domanda che si fanno tutti gli italiani è: una maggiore incidenza dell'immigrazione comporta un maggior rischio di violenze sessuali? Ma guardi, io riprendo un po' l'ultima espressione della Gentili, nel senso che è un dibattito sulle partigianerie di chi ha commesso il reato che in qualche modo ci ha tirati dentro, ma che ci interessa poco. Partirei da un dato: noi abbiamo conteggiato, prendendo come fonte chiaramente il Ministero dell'Interno, le relazioni al Parlamento per capirci, sì, abbiamo preso come fonte gli aggregati degli atti di violenza sessuale che sono stati conteggiati e monitorati dal Viminale. Ci dica qualche dato, i più interessanti per far capire I più interessanti, sicuramente ci sono stati dal 2010 al 2014 circa 23.000 casi di violenza sessuale denunciati, perché diciamo la verità, molti purtroppo non sono denunciati. Sì, e poi quello è l'altro questo aspetto. Volevo dirle, dottor Milan, un elemento forse trascurato è che 6.000, oltre 6.000 casi hanno autori ignoti. Ma cioè, è esatto che solo il 7% viene denunciato, vero? Soltanto... il tasso di denuncia è ancora molto basso, per cui questo dato chiaramente è vittima, mi si passi l'espressione, anche di un sommerso che è legato a una serie di connotazioni, per cui un dato che potrebbe passare, anzi poi in un sondaggio che abbiamo realizzato passa, un messaggio in qualche modo di impunità, sì, e questo a prescindere dalla nazionalità di chi ha... No, ma però lei ci ha già dato un dato, ricordiamo, 23.000 casi denunciati vuol dire una media di 15 casi al giorno, è impressionante, sì, sono quelli denunciati. Chi sono le vittime, statisticamente? Le vittime sono, nella stragrande maggioranza dei casi, chiaramente donne, sì, e nel caso specifico, cioè all'interno dell'universo femminile, il 68% sono donne di nazionalità italiana. Poi seguono ovviamente comunità femminili, la cui presenza in Italia, anche in termini di comunità complessiva, è più numerosa. Ma è esatto dire che c'è pressoché una corrispondenza tra la quantità di stupratori stranieri e quantità di donne abusate straniere? Perché poi si tende a dire che c'è appunto soltanto sul numero degli stupratori si tende a mettere in luce il fatto che siano stranieri, ma questo vale anche per coloro che sono abusate. Certo, ha perfettamente ragione. In qualche modo c'è una relazione direttamente proporzionale, perché le vittime, la percentuale di vittime, cioè donne di nazionalità italiana, rumene, marocchini, albanesi, che sono le donne vittime denunciate, le stesse nazionalità, ahimè, si trovano tra gli orchi, tra i... Certo, sì. Quindi diciamo sono violenze che sono commesse tra connazionali, ecco. E diciamo... questo molto spesso lega e ritorna anche al fatto, sì, alla quantità di abusi enorme che leggevo nei vostri dati, si rilevano all'interno delle famiglie, per esempio, tra conoscenti, parenti, amici, e molto spesso essere della stessa nazionalità riporta a essere... Certo. Io un dato che ho letto sui giornali, tratto dalla vostra ricerca, ma ce lo confermi o ce lo smentisca, è che il 70% di stupratori sono italiani e il 30% stranieri. Questa più o meno è la statistica giusta? 70 e 30? Diciamo, se rispetto ai dati elaborati dal Viminale degli ultimi anni, esattamente la cifra sarebbe 61% sì, italiani e 39 altre nazionalità. Capisce però che le persone, sì, che leggono dicono il 39% degli abitanti in Italia non sono stranieri, quindi compendiandolo con la percentuale di stranieri in Italia, che credo sia sul 10%, però è per questo che è necessario fare una lettura del fenomeno, come il fatto che poi ci sono le donne che sono di nazionalità straniere e sono abusate, altrimenti chiaro, se ne fa una lettura parziale del dato, no? La difficoltà è di duplice natura. Allora, se vogliamo fermarci alla fredda logica statistica, ho letto in questi giorni tantissimi esercizi, diciamo, di sapienza statistica, pesi, percentuali, ponderazioni. Allora, se ci fermiamo a questo, questo, noi proprio stamattina per voi abbiamo preso i dati legati ai denunciati e agli arrestati per nazionalità. Bene, se noi usiamo per 100.000 residenti il dato dei denunciati, diciamo che sulla comunità italiana ogni 100.000 residenti italiani, 170 sarebbero i denunciati italiani, mentre sulla comunità straniera è esattamente il contrario, sulla comunità straniera ogni 170 denunciati, ogni 100.000 stranieri residenti, mentre sugli italiani sono 25 ogni 100.000 italiani residenti, quindi è chiaro che se noi standardizziamo 100.000 residenti, ma questo lo si vede anche dalla differenza, c'è l'incidenza degli stranieri è evidentemente però è giusto che poi qua dire vedi, cioè quelli che vivono di certezze io non li capisco mai, Veronica, non so, cioè quelli che prendono una fredda statistica che ci ha detto qua Raffaele Rio e dire vedi, quindi è così, quindi è così non si può dire. Infatti bisogna avere il tempo di leggere i dati, leggere cosa significano. Però capisci tentare. Che è una vicenda di cronaca. Tu sei stata colpita, per esempio, che questi due minorenni sono stati denunciati dal padre. Intanto l'elemento dei minorenni, la quantità di minorenni, leggevo anche all'interno dei dati, di abusi perpetrati da parte di minorenni e talvolta a minorenni, e anche i dati degli abusi di gruppo fatti da minorenni. Si può discutere se a 17 anni sei minorenne, certo, dal punto di vista. Anche se nello specifico di Rimini addirittura arriviamo a 15 e 16 anni, quindi forse lo sei ancora minorenne. Ti ha colpito che il papà, visto un fotogramma, li ha incentivati ad andare dalla polizia? Beh, è una cosa abbastanza forte, ci aveva colpito la storia della scorsa settimana dei due genitori che hanno denunciato il figlio pirata della strada che aveva investito il ciclista. Il fatto che un genitore con due figli minorenni dica ora tutti vai immediatamente a costituire è un segnale, a mio avviso, importante. Bisogna capire anche se erano ormai individuati, così pare, e quindi questo potrebbe anche in fase processuale servire. Assolutamente, questo noi non lo possiamo sapere, però limitandoci alla lettura di quella che è stata l'intervista di ieri, che è stata rilasciata ieri al Resto del Carlino del padre, è importante vedere che il segnale che c'è è quello di dire ok, io prendo le distanze da quello che hanno fatto i miei figli, e nonostante siano i miei figli, e la tendenza che c'è è sempre essere in qualche modo protettivi e tenere nel bozzolo anche le peggiori nefandezze che vengono commesse, il fatto che si dica di no è importante, è un segnale importante. Allora, noi nel ringraziare Raffaele Rio, presidente di Demoscopica, andiamo al traffico perché poi arriva il terzo funambolo, almeno qui al microfono. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... I funamboli. E allora siamo qua, funamboli@radio24.it è per scriverci, e 349-238-6666 è per scriverci pure o mandarci dei WhatsApp in audio. Uh-huh. Cara Veronica, eccolo qua, c'è il nostro terzo funambolo. Buongiorno! Leonardo Manera! Ma buongiorno! Buongiorno Veronica, buongiorno Alessandra e a tutti gli ascoltatori di Funamboli. È il mio debutto qui a Funamboli. È fantastico, hai già detto poi cosa vuol dire? Funamboli. Funamboli, no, io tra l'altro voglio subito dire che prima ascoltando l'avvocato Scafetta mi è venuta voglia di fare un piccolo abuso edilizio, perché secondo me ti dà uno scopo nella vita. Se tu per esempio non sei credente, non sai cosa fare, passi la vita prima a fare l'abuso, poi a fare ricorsi al TAR, quindi ti può dare un senso alla vita. Quindi io invito tutti quelli che non sanno cosa fare della propria vita a fare almeno un piccolo abuso. No. Siamo la radio della legalità, siamo Radio 24, siamo... Ecco, voi avete capito. Una verandina. No, neanche una verandina. Un solaio. No, neanche un solaio. Abusate dalla vostra casa. Ecco, c'è già stata una quantità di telefonate all'avvocato Scafetta che non avete idea da quando abbiamo... Avvisiamo i carabinieri che sono materializzati qui fuori dalla porta che Leonardo Manera uscirà per una breve pausa alle 10. Per andare a fare un abuso sulla mia veranda, farò una veranda abusiva. No, Leonardo Manera ci aiuterà anche a vedere con questo sguardo dissacrante, avete capito, l'attualità, caro Leonardo. Dissacrante, insomma, quest'estate si è parlato, adesso ne parlavate anche voi in modo drammatico riguardo al tema degli stupri, ma il tema dell'estate è stato in qualche modo quello degli extracomunitari, no? Di tutti quelli arrivano in Italia. E allora io comincerei con una battuta di Flyer. Giuliano, proprio in merito, che dice: ma lei darebbe sua figlia per moglie a un negro? E dice: mia figlia no, ma mia moglie subito, sono mica razzista. Ora... Giuliano Docet, veramente. Io invece penso che il problema un po' di noi sia quello che si tende tutti a generalizzare, no? Per esempio, per noi i musulmani sono tutti terroristi, anche se insomma non è così, però poi si dice che tutti i terroristi sono musulmani, i magrebini sono tutti un po' fancazzisti, ma anche sugli europei, per esempio, si dice: noi italiani pensiamo, le scandinave la danno via come se niente fosse, ma sono fredde. Io posso testimoniare che non è vero, perché una volta ho conosciuto una scandinava e non me l'ha mai data. Si sa, questo è un altro tormentone su cui Leonardo. Ma poi il problema, però, dall'altra parte è quella che abbiamo una serie di sensi di colpa, no, rispetto agli extracomunitari, perché siamo tutti cittadini occidentali, moderati, evoluti, progressisti, perché abbiamo il cristianesimo, perché abbiamo avuto le colonie. Alcuni dicono: ma noi abbiamo fatto là le colonie, abbiamo fatte di ogni, quindi dobbiamo accogliere. Allora è difficile capire da che parte stare, perché magari in TV vedi Salvini e pensi: no, io non mi sento così, mi sento un po' più a sinistra. Poi cambi canale, vedi Renzi e pensi: no, non mi sento così, mi sento molto più a sinistra. Poi cambi canale, vedi Di Maio e pensi: ma... Per esempio, sull'immigrazione, se dici negro sei di destra, no? Se dici nero sei di sinistra, se per te il colore non fa nessuna differenza, sei daltonico. Allora, io per esempio sono un cittadino evoluto, sono evoluto, occidentale, progressista, dico nero, sono per l'immigrazione, per la solidarietà, per il multiculturalismo, e quindi posso dire di essere progressista, cittadino progressista. E sarei felice se un extracomunitario venisse ad abitare proprio accanto a casa mia. Ma lo vedi, allora... Sarei felice se un extracomunitario venisse ad abitare proprio accanto a me. Cioè, sarei felice se l'extracomunitario fosse brasiliana, giovane, carina, disponibile. Meno felice se fosse un senegalese che vuole darmi tutti i giorni gli elefantini. È anche un po' una rottura, diciamo. Salutiamo tutti i senegalesi, ci ascoltano e tantissimo. Anche le brasiliane. Ragazzi, finitela dopo, uscite. Sì, però io prima ho detto che sono progressista, però forse se ragiono così non sono un cittadino evoluto di sinistra, sono di destra. Io invece voglio fare qualcosa per tornare a essere veramente progressista e di sinistra. Allora compro una bella maglietta con l'immagine di Che Guevara. Bye Dolce e Gabbana, no, mi sembra giusto. Poi io di sinistra compro i giornali di sinistra, come il Manifesto, che è di sinistra, tanto non lo leggo. E poi compro la Gazzetta dello Sport, la leggo, però leggo solo le pagine di sinistra, che mi sembra coerente. Poi io di sinistra vado a cena, ma non vado nei ristoranti normali, io vado a cena nelle enoteche underground col vino prodotto da viti biologiche, dove quello che mangi e bevi ti costa come due cene nei ristoranti di lusso che tu frequenti spesso. Sì, Veronica, sì. È uscito con me, evidentemente. E poi quando esco dall'enoteca biologica non vado in discoteca, io di sinistra vado al cinema a vedere un film cinese con i sottotitoli in iraniano che parla della condizione della donna lungo la grande muraglia. E poi parliamo di cose belle, interessanti, di libri, petizioni, identità e meticciato, di laicità e laicismo, e mi diverto tantissimo. Tantissimo. Insomma. Abbastanza. Poi però tutti me lo devono dire: tu sei di sinistra, progressista, anzi lo devono gridare: tu sei di sinistra. E finalmente dopo una giornata così vado a puttane. No, ma con una russa, con una russa, perché anche lei è vittima del comunismo. Mamma mia, ragazzi. Siamo un po' condizionati. Io una cosa so: c'è l'aria condizionata, ma suderemo questo... moltissimo. Sì, noi già. Suderemo moltissimo. Vabbè, guarda, qua c'è, signori, c'è il primo ascoltatore. Abbiamo un minuto, dobbiamo andare poi al giornale radio delle 10. Poi dice? Avremo tante cose da dire ancora nella seconda ora. Ma Delio da Roma è il nostro primo funambolo. Ciao, Delio. No, Delio. Buongiorno, è un onore. Sentite, io una trentina d'anni fa ho comprato un terreno agricolo in comune di Roma, comune di Roma, e tutto attorno a me, gli altri che hanno comprato il terreno hanno costruito case, palazzine per loro. E lei invece è rimasto gabbato. Io l'ho stato aperto. Poi è uscito che è diventato il piano pericoleggiato, è diventato edificabile. Hanno dato un indice ridicolo, non posso fare niente praticamente. Toni di urbanizzazione, 80.000 euro mi hanno chiesto. Morale della favola: quelli che hanno costruito attorno hanno tutti la prima casa per loro, per i figli. Così, e perché lei è rimasto gabbato? Io lì su quel terreno pago 3.900 euro all'anno di IMU, e dai vicini di casa sono pure considerato un coglione. Guardi, noi non ci aggregheremo ai suoi vicini di casa, ci caro Delio. Per lei, devo dire. Però, insomma, può sentire dopo Manera che ha invitato a fare tutti un piccolo abuso. Piccolo abuso, insomma, che si può sanare facilmente con un bel ricorso al TAR. No, non credo che sia la strada giusta, caro Leonardo, fai il bravo. Anzi no, non fare il bravo. Ma comunque la prima ora di Funamboli si chiude qui. Ma dopo avremo il funambolo del giorno. Poi partirà la campagna Defurbizziamoci. Poi tante altre cose. Con siamo Veronica pronti. Gentili, con Leonardo Manera, Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I funamboli. Gregor Samsa, svegliandosi un mattino da sogni agitati, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto immondo. Giaceva sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un po' la testa vide un addome arcuato, scuro, attraversato da numerose nervature. La coperta, in equilibrio sulla sua punta, minacciava di cadere da un momento all'altro, mentre le numerose zampe, pietosamente sottili rispetto alla sua mole, gli ondeggiavano confusamente davanti agli occhi. «Che mi è successo?» pensò. Buttare via la coperta fu una cosa da nulla. Gli bastò gonfiarsi un po' e quella cadde da sola. Ma dopo cominciarono le difficoltà, specialmente perché era così grosso. Avrebbe avuto bisogno di braccia e di mani per alzarsi, invece aveva soltanto tutte quelle zampine in perpetuo movimento che non riusciva a dominare. Se provava a piegarne una, gli capitava al contrario di allungarla. Quando riusciva infine a fare con essa ciò che voleva, le altre, quasi fossero senza controllo, si muovevano con un'altissima e dolorosa intensità. «Via, via, è inutile restare a letto», disse Gregor. Ah, ma questo c'è proprio il libro La metamorfosi di Kafka. Il buon vecchio Kafka. Lo scarafaggione Gregor. Quante volte l'hai letto tu, Leonardo, questo libro? Io ho visto il film La mosca di Cronenberg. Anche lì c'è una mutazione. Eh signori, chissà, poi gli ascoltatori si dicono: ma come mai qua ai funamboli introduciamo il tema con un bello scarafaggio? Scusami, svegliarsi una mattina a scarafaggio deve essere veramente brutto. Che ci può essere di peggio? No, di lo peggio, so. Di peggio, cioè svegliarsi in un letto pieno di scarafaggi, che fa un po' impressione. Quello è peggio ancora, ma secondo me ancora peggio è svegliarsi scarafaggio ed essere poi mangiato da qualcuno. Ah, e questa infatti è l'inquietudine di Gregorio Samsa. Allora, signori, signori, perché parliamo di scarafaggi? Non proprio scarafaggi, ma comunque di insetti, perché è il momento di introdurre intanto la prima rubrica che ci porteremo dietro per tutta la stagione. Il funambolo del giorno. Ebbene sì, perché qui vogliamo raccontare l'Italia fatta dagli italiani, persone che raccontano il loro lavoro, persone che raccontano se ce la fanno, come ce la fanno, come si arrabattano, che cosa ci devono incuriosire però, Veronica, con i loro racconti, con le loro storie, con le come loro come si fa vite. A barcamenarsi in questo paese, a camminare sempre sul filo, esatto, senza mai cadere però. Per esempio, si può creare un sito e mettere su un'attività che è questa, insettocommestibili.it. Ma non fare così. Ma lui non solo fa il sito, ma poi anche la realizza questa cosa dal punto di vista vero e proprio, che ci racconta Giuseppe Bozzaotra. Buongiorno Giuseppe, come stai? Buongiorno a tutti, buongiorno Veronica, buongiorno. Come va? Buongiorno. Come va? Insettocommestibili.it. Cioè, chiariamo subito una cosa. Tu e tuo fratello? Il tuo fratello Antonio. I due gemelli Bozzaotra, esatto. I più ricercati qua in Italia per adesso. Fate, allevate insetti. No, io non gliela faccio. Allora. Dillo tu. No, beh, un preambolo sulla lettera che avete detto prima. Attenzione, appena si incominciano a muovere le zampette, come stamattina che si puliscono le vasche, bisogna tenere la bocca chiusa perché appena capiscono cosa fare e questi insetti si buttano in bocca. No, sono insetti da mangiare. Vogliono finirti in bocca. Facciamo un salto in bocca alla Padovana. Diciamo, a Faro. Cioè, due fratelli gemelli di Monselice che si sono messi a allevare insetti da vendere per mangiarseli. Piccatina di cavalletta. Cioè, per esempio, tipo a colazione che ti mangi? A colazione, le larvette che sono anche dolci, allora si abbinano benissimo alla marmellata, perché hanno un po' quel retrogusto, un po' di formaggio, quindi marmellata e formaggio ci sta. Perfetto, ma non ci scandalizziamo, perché comunque in effetti sono buone. Buone. Bisogna solo entrare un po' nella concezione della testa. Giuseppe, ma dici una cosa, ma tu li mangi o li vendi e basta? Perché questo va chiarito prima. No. Li mangio come li mangiamo come aperitivo, diciamo, quando festeggiamo qua in amicizia. Tipo un bel aperitivo, prosecco, Prima era prosecco e bachi, però adesso sta andando di più la larva, diciamo. La larva, adesso però guarda che tira la larva. Prosecco e bachi suona bene, senti che è anche un po' esotico. Prosecco mangio e bachi. Un bachi. Ma Giuseppe, mi scusi, sono Manera, ci sono anch'io tra i funamboli. Ecco, volevo chiedere, buongiorno, lei ha già avuto proteste da parte dei vegani, per esempio, o questa cosa le manca per il momento? Sì, no, abbiamo avuto proteste sia in qualche manifestazione che anche in azienda, perché vengono a buttarsi giù le nostre serre perché devono far vedere, ma ancora non sono arrivati a fare forti manifestazioni, intanto si danno fastidio. Ci sono. È comunque normale, ci sta nel mondo purtroppo degli allevatori di animali. Ma comunque non scandalizzatevi, insomma, scorpioni con la polenta, vespe giganti, le vespe giganti pare che siano no, molto allora, gustose. Importante, lo scorpione con la polenta è interessante, lo scorpione deduco che perda la sua componente di veleno, cioè non ti può voglio sperare pungere quando è nello stomaco, no? Si brucia la sua veleno e diventa cenere praticamente, non dà più nessun effetto collaterale, anche se non hanno nessun gran veleno e questi scorpioni che alleviamo. Comunque, diciamo che lo scorpione si avvicina un po' al sapore della schia, del pescetto, quindi si abbina benissimo alla polenta. Quindi, qua in Veneto, polenta e schie, facciamo polenta e scorpioni. È uguale. Lei sa quando lei avrà veramente successo, quando mangiando vari alimenti le persone diranno: questo pesce assomiglia alla larva. oppure le vespe giganti, pare che siano molto gustosi. Di cosa sanno le vespe giganti? Pare, perché io mi fido. Sanno anche loro un po' da formaggio, ma hanno un retrogusto un po' amarognolo, che è quel veleno che si è disidratato. E che ti lascia quel po' di brio, un po' di brivido sulla schiena, perché c'è qualcosa della vespa. Ma gli chef che vanno per la maggiore in Italia non hanno ancora mostrato interesse per dilettarsi nella loro cucina con gli insetti? Dobbiamo spiegarlo, credo che non si possa dal punto di vista, cioè spiegaci questo punto, perché tecnicamente allora ce n'è, Veronica, sì? I cuochi ci sono. Anche perché c'è un'azienda che si chiama Gambero Rosso che sta già facendo un progetto insieme a un'azienda di pastificio, Felicetti, dove noi davamo, adesso sì, diciamo, diamo le farine di grillo, dove loro fanno la pasta e la Felicetti fa la pasta e la dà in... La famosa pasta del Movimento 5 Stelle con la farina di grillo. Non ha veramente fatto questa battuta, cacciatelo fuori per favore, qualcuno non l'ho fatta io, e non l'ha fatta, non è Manera. Grazie, che ha fatto la battuta. Grazie Leonardo, adesso, per Manera, essere intervenuto a dare un'autorevolezza Manera a questo programma. Manera condurrà in maniera autorevole, io farò il comico. Da domani invertiamo l'ordine, no? Vabbè, no, dicevi Giuseppe, dicevi. Niente, che stanno già sperimentando questa pasta fatta di farina di grillo, questo additivo di farina di grillo, per negli ristoranti Gambero Rosso, per dare già una cultura, una nuova cultura alimentare nella nostra gastronomia italiana. Una nuova cultura. Quindi, tra l'altro, ha attecchito. Pare che siano molto proteici. Però insomma, chi mangia queste cose ha inizialmente almeno un po' una sensazione, diciamo, di schifo all'inizio. Fa un po' schifo all'inizio, no, lei forse si è abituato, però chi mangia per la prima volta il grillo, per esempio, ecco. Come reagisce allora, la larva? Chi lo mangia è perché non ha schifo. Allora, quello che dice che ha schifo non bisogna costringerlo, prima o poi lo farà, però adesso prima non o poi è... ci cascano tutti nell'insetto. Tanto sentirà l'amica che dice: no, erano buoni, sai, erano buoni sti grilli. Sente questa croccantezza in bocca, questa friabilità. Sì, c'è anche con il pane della bruschetta, sai, per questo. Però Giuseppe, aspetta un attimo, perché dobbiamo dare le informazioni sul traffico, ma poi concludiamo e andiamo avanti con questo funambolo del giorno. Fammi uno scorpioncino alla piastra, esatto. Che io ho subito. Esatto, tra un attimo. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... I funamboli. Allora, non so se avete capito, siamo sempre qui ai Funamboli in diretta fino alle 11 su Radio 24. Stiamo parlando con il funambolo del giorno, Giuseppe Bozzaotra, che insieme al fratello ha messo in piedi il sito insetticommestibili.it, dove voi potete andare in questo momento e comprarvi una bella sacchetta di vespe giganti, per esempio, non so. Però formalmente non si possono mangiare, si dice, esatto, in Italia. Esatto, cioè, perché Giuseppe, voi cosa mettete? Che sono souvenir, questo è l'escamotage. Sono souvenir, sono... diciamo sacchetti da collezione per chi vuole collezionare carafagi, coleotteri. È una collezione in busta di coleotteri già cotti, disidratati, per chi vuole tenerli che possono resistere, perché è un prodotto fermo, non si deteriora, non va male, non ha, ha una scadenza lunga, allora si possono tenere lì su i nostri scaffali, guardarli e ammirarli e vedere o mangiarli. E poi sai, quando ti prende l'attacco di fame, anche se ti fa schifo l'insetto e c'hai solo i grilli sulla linea, che fai? Ti mangi quello. Ma una cosa volevo capire, Giuseppe, in realtà tu sei un funambolo perché ti sei infilato in quell'insenatura tra ciò che la legge vieta e ciò che la legge non vieta espressamente. Questa è un po' la storia. Praticamente è così, perché non esiste ancora una legge. C'è un buio legislativo in questa normativa, il famoso vuoto normativo nello specifico. Abbiamo fatto un vuoto normativo, abbiamo subito siamo infilati e abbiamo provato a commercializzare questo prodotto, che va tantissimo, perché curiosi ce ne sono tantissimi. Curiosi ci sono, però io so che per esempio una cosa non l'ha ancora vinta, Giuseppe: la tarantola, cioè lo schifo. Oddio. Per la tarantola l'hai vinto? È impegnativo. No, non l'abbiamo vinta e non vogliamo vincere, anche perché sarà strano, ma allevare scorpioni, tenere degli scorpioni in mano, perché purtroppo devi sapere anche prendere gli scorpioni, lo scorpione non colpisce se non è attaccato, se non è schiacciato. Invece la tarantola, se la vai a prendere per pulire le varie vasche, ti può tirare la sua scossetta. Ma è molto velenosa la tarantola? Ma non è... No. Non è, allora, intanto si allevano animali magari non velenosissimi, però... Un po'. Essere beccato durante il lavoro... Sì. Senta, Giuseppe, posso chiedere una cosa? Lei non aveva un altro lavoro da fare nella vita? Al di là di questo, non so, un lavoro più normale, impiegato in banca, geometra, perché? No, ma infatti quando ti dicono ma che lavoro sennò che fai, fu una mola. Esatto, cosa faccio? L'allevatore, dice, l'allevatore. Tra l'altro ci arriva un messaggio via WhatsApp: buongiorno, in Colombia si usa mangiare come snack la formica culona, ci fa sapere Matteo, è un sapore interessante. Quindi prima bisogna farla mangiare tanto sta formica. Bravo, bisogna allevarla e allevare dagli miele, allora poi sono prelibate anche quelle, ma noi non alleviamo formiche. No, adesso noi ridiamo, però intanto in Svizzera, se mi risulta esserci già, se uno va alla Coop, l'hamburger di grilli, per dire. No? Ma anche in Francia già vendono delle confezioni di insetti, o sbaglio, Giuseppe? Sì, in Francia si da sempre. In Svizzera dalla scorsa settimana è iniziata la commercializzazione di hamburger e di snack. Per fortuna noi, vedendo la legge italiana che era ancora difficile, siamo riusciti a importare a mettere il nostro marchio, nella rete svizzera, e quindi siamo entrati anche noi in Svizzera. Così gli italiani conosceranno un prodotto in Svizzera, fino a poi quando nascerà in Italia e sarà già conosciuto. È vostro, è vostro. Ci siamo fatti un po' una... Giuseppe, per un neofita, per qualcuno che volesse iniziare, da che insetto mi consiglia di partire? Ecco, io voglio cominciare... I grilli. Il primo step. Giuro che non rifaccio la battuta. No, non la farai. Non faccio la battuta. Lo giuri, perché sto per imbavagliarti, giuro. Non la farai. No, ma noi vogliamo intanto ringraziarti tantissimo, Giuseppe Bozzaotra. No, scusami, un'ultima domanda al volo. Giuseppe, ma si mangiano con la forma dell'insetto? Oppure vengono impastati, li camuffiamo? Allora, lo snack da passeggio, che è il sacchettino, no, lo mangi con la forma dell'insetto, magari non troverai le zampette dentro, perché le eliminiamo prima che le togliamo le zampette, le tagliamo, così non ti si infilano nei denti, che quello è l'unico problema. No, perché anche il filo interdentale per l'insetto poi è problematico. Cos'hai? No, niente, una zampetta di grillo. Uno pensa sia una cosa metaforica, no. No, è il grillo, è la forma meno aggressiva che può dare all'occhio umano, ed è anche buono perché sa di nocciola, quindi sa di nocciola e si sgranocchia bene. Poi la cavalletta, che è un po' più grande, ma lo lasciamo ai più, a quelli che sanno già. Senti, vabbè, noi pensiamo in settimana di venire tutti e tre a cena da te, eh? Vabbè. Tutti, solo rigorosamente insetti, sì, che no, poi essendo proteici per noi, signore, io. Va bene, va no? Bene. Per le ragazze aiuta. Sì, sì, allora fate gli scherzi, riduci un sacco, mangiando insetti, acquisisci tante proteine, non grassi. L'avevo capito, è ottimo per la dieta. Due settimane ti prendi una linea favolosa. Favolosa. Signori, se volete, per se la siete in forma, ragazzi, curiosi, andate lì www.insetticommestibili.it e troverete Giuseppe Bozzaotra e il fratello Antonio. Antonio. Insomma, okay. E allora ti ringraziamo, Giuseppe. Grazie, funambolo. Grazie a voi. Grazie Giuseppe. Ciao, vero, Giuseppe. Hai la vera patente da funambolo da oggi. Sì, grande. Sì, una vera patente da funambolo. Vabbè, ragazzi, io non so. Ho già un certo languorino perché sono quasi le 10:30. Adesso io ti ci porto a mangiare. Io ce lo porto. No. Guarda, no, tu no, vedrai no. Se io entro la fine della settimana lo porto a mangiarsi uno scorpioncino. Io non mangio neanche le lumache. C'è un'ascoltatrice, mi dice, ho visto il salame di lumache. C'è anche il salame di lumache. Io le lumache le mangio. Io invece neanche le rane. No, no, no, veramente. Non lo so. Beh, però ci ha dato buone una prospettiva diversa. Perché adesso, se vedremo degli scarafaggi sul balcone, invece di dire che schifo, diremo, ma è una possibilità. Bah, è ora di pranzo. No, uno si batte e dice, ma che c'era stasera per cena? Scarafaggi. Vabbè, signori, dai, cambiamo. Dobbiamo parlare di qualcosa che ci ha colpito, eh? Gas. Adesso non incominciate a rompere le scatole dicendo che ci sono stati 2600 stupri italiani. Non vuol dire niente. Non vuol dire che dobbiamo importare stupratori negri perché i nostri non ci bastano. Certo che una donna a difendere dei violentatori stranieri fa proprio schifo. Cara Veronica, vedi i nostri ascoltatori. No, ma io ringrazio lo spunto di questo messaggio per chiarire una volta per tutte: non difende gli stupratori. Che fare un ragionamento non significa difendere gli stupratori. E se permette, faccio presente al nostro ascoltatore, a maggior ragione da donna, che non ho piacere che il corpo femminile venga strumentalizzato per fare delle battaglie politiche che sono di altra natura. Io penso che lo stupro vada analizzato in quanto tale, che questi dati vadano presi innanzitutto per vedere la quantità di stupri che le donne subiscono e il fatto che il 40% delle donne ha ricevuto abusi, se non altro verbali, che provocano loro danni di natura psichica. Questi mi sembrano dati molto importanti che vanno visti assieme alla componente della migrazione, dello straniero, non soltanto strumentalizzati e poi per il resto il problema dello stupro femminile Non devo esiste. Dire, sicuramente. Perdono la rettifica, perché altrimenti tutto quanto diventa sempre buttarla in caciara. Poi non diciamo che Veronica difende gli stupratori, ma non si può sentire. Ma no, è proprio una cosa non udibile. Però attenzione, Veronica, battagli che è emersa in queste parole. Avete visto? Siete riusciti a farmi scaldare. Perché voi pensate, cari ascoltatori, di metterla all'angolo e lei pam pam jab sinistro. Mi sta davanti a zia Veronica. Non me fate venire fuori in romano, eh. No. Un amo. Allora, signori, qua però dobbiamo raccontare di una storia che ci ha colpito, una storia che riguarda il decoro pubblico, il modo di comportarsi. Tante volte succede queste cose, si leggono, io ricordo anche un professore che ha perso il posto di lavoro perché è stato colto a fare pipì in un luogo pubblico, poi è stato denunciato, non aveva detto che questa denuncia non l'aveva messa nel suo curriculum e quindi da dipendente pubblico era stato denunciato. È successa una vicenda simile di due ragazzi che sono stati multati a Monterosso, nella splendida Monterosso in provincia di La Spezia. Abbiamo il sindaco Emanuele Moggia. Sindaco, buongiorno e grazie di essere buongiorno. Qui. Buongiorno. Grazie dell'invito. Che è successo? Due ragazzi hanno fatto pipì. Questo è il dato di fatto. E sono stati multati. Ma dove l'hanno fatta esattamente? Ma questo è successo nell'ambito del molo, del capoluogo. Sì. Però come è giusto anche fra le istituzioni, non commenta con fatto che è stato sanzionato dai carabinieri, perché non conoscendo gli atti, non avendo la conoscenza degli atti e essendo venuto a conoscere anche i fatti, anche da quello che è il mezzo stampa, non è corretto insomma commentare. Certo è che voi avete parlato anche poco fa in trasmissione di abusivismo edilizio, di sicurezza, di decoro, no? Insomma, per un paese, per un territorio come quello delle Cinque Terre, che fa proprio della bellezza, insomma, il suo valore aggiunto, la sua appetibilità a livello non si può fare pipì, cioè. Eh no, più che altro non si ma magari, può magari hanno cercato un bagno, magari hanno cercato un locale, sindaco, però come dico, non si può abbassare la guardia, sennò poi si fa rischia di fare la fine del povero Gregor e di svegliarsi davvero da un incubo. Ma hanno fatto pipì, sindaco, però cerchiamo, siamo onesti tra di noi, tra tante cose che si possono fare, che possono intaccare il decoro urbano di una città, secondo lei davvero, adesso a prescindere da quello che la legge dice e poi dalla ratio legis, perché poi c'è anche un'interpretazione che uno dà della legge, del principio che c'è dietro la legge, davvero due ragazzi che fanno la pipì in mare dal molo, in una zona d'ombra, in un mare dove fanno pipì tutti dalla mattina alla sera, perché questo si sa, davvero intaccano il decoro urbano secondo lei? No, guardi, allora intanto la sanzione, a quanto ne so io, non è questione di decoro urbano, ma è questione di atti osceni, se non ho letto male da stampa, no? Sì, potrebbe. È una questione diversa. Sai, per far pipì. Bagni al molo di Monterosso. No, guardi, ce l'ho qui davanti, la motivazione degli atti contrari al pubblico decoro. Esatto. Sì. Quindi stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di avere inquinato, di aver fatto pipì in mare. Sì, non tanto però decoro urbano, ma proprio il decoro pubblico, cioè atti osceni. Ecco. Quello dipende, le dico, io apprendo anch'io dalle cronache di stampa, no? Non ero testimone oculare. E così sono andate le cose, è diverso, anche perché lo chiedete lì all'ingresso del mondo. Sì, però lei dice è un qualcosa che, insomma, mi sembra che sia abbastanza d'accordo con questa sanzione, perché bisogna mantenere una certa linea, un certo decoro, non si può venire mica qui a Monterosso a far la pipì. Ma come le dico, come ho premesso, non conoscendo gli atti, le istituzioni lavorano anche per atti, però abbiate pazienza, perché se no rischiamo davvero di non arrivare in fondo alle situazioni. Un conto è gli atti contrari al pubblico decoro, un conto è fare pipì dal molo, insomma, vediamo qual è stato il problema. Questo è un pochino quello che io cerco di focalizzare. Certo che vi dico, in un paese, in un territorio che è visitato annualmente da quasi 3 milioni di persone, non possiamo certo abbassare la guardia su tutto, questo è evidente. Quindi lei comunque non pensa che ci sia stato un eccessivo zelo da parte di pubblici ufficiali che sono stati un po' così, un po' pedanti nella loro discrezionalità dell'interpretazione della legge? Ma guardi, io le ripeto che non conosco gli atti. Ma da sindaco, però ce lo avrà dica. Una sua visione della cosa. Ora nessuno di noi era atti. Lì, neanche se non i carabinieri e i due ragazzi. Però insomma, ci noi sappiamo. E no, c'era una festa, c'era una festa autorizzata, una festa disco. Sì. È stata fatta al molo, abbiamo potenziato i livelli di sicurezza per le note vicende anche recenti che ci sono state, le linee della prefettura che ci impongono anche di mantenere alta la guardia, è stato potenziato anche proprio il servizio di sicurezza anche grazie alla presenza dei carabinieri. Infatti tenere alta la guardia è importante, magari sanzionare la pipì. Ma adesso, per risolvere il problema, avete pensato di mettere una serie di bagni chimici sul molo di Monterosso? No, guardi, i bagni al molo di Monterosso ci sono già, sono proprio all'ingresso del molo e sono circa 30, non più di 30-50 metri dal luogo della Quindi diciamo, hanno proprio voluto fare qualcosa un po' di... Non lo so, guardi, io le dico quali sono i fatti, i bagni a Monterosso ci sono, i bagni maschili, nello specifico, sono aperti apposta anche di notte e fra l'altro sono stati anche oggetto anche di critica per il fatto invece che essendo aperti di notte potrebbero essere facilmente sporcati, quindi quella è stata una delle critiche. Cioè, questi due ragazzi volevano sfidare proprio la legge facendo la pipì probabilmente. E a Monterosso non si fa, no scherzo, insomma il tono non si fa ovunque. No, ma è chiaro sindaco, lei capisce che è una questione che appare anche buffa e per questo che se ne discute, perché chiaramente parlandone vista dall'esterno sembra un po' bizzarra, per questo che si fa un po' di ironia unicamente, no? Sì, no, ma quello lo capisco benissimo, quello lo capisco, certo. Perché però non perdiamo magari di vista l'obiettivo. Il concetto del decoro urbano è determinante. Io abito a Milano in una zona, spesso l'ho detto, vicino a Viale Padova, dove ci sono persone che pisciano Roma, per strada. E non è certamente piacevole, sindaco, questo non è che sto dicendo. Però insomma ci ha colpito questa storia della multa, ecco, addirittura multare dei ragazzi. Chissà quante volte Leonardo Manera con le sue serate in giro, quando si ritrova alle 3 di notte, dopo finita la serata, non sa dove andare. No, a me è capitata una cosa diversa. diversa ma non piacevole. Ero a Milano sul ponte, ci sono dei ponti sul Naviglio qui a Milano, certo. Io stavo passeggiando verso le due di notte, stavo tornando a casa e un ragazzo stava facendo pipì dal ponte giù nel Naviglio, mi ha riconosciuto, erano gli anni d'oro di Zelig, è venuto verso di me senza smettere di fare pipì, mi ha abbracciato. Che bella scena. È stata una bellissima esperienza che ricordo ancora con grande gioia. Anche i tuoi pantaloni. Spero che il sindaco non sia ancora qui, però l'abbiamo salutato. Il sindaco di Monterosso, grazie, Emanuele Moggi, anche perché dobbiamo fermarci un attimo, ci sono le informazioni sulla borsa e poi, signori, parte una nuova campagna qui, che è la campagna Defurbizziamoci. Oh, vogliamo defurbizzarvi. Tra poco vi spiegheremo tutto. Funamboli. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. Insetti, sì, ma mi chiedo cos'è meglio, petto o coscia? Fresh, yeah. Cause I'm a sad, sad. Non è male, questo. Vuol sapere se è meglio il petto o la coscia di grillo, evidentemente, o di cavalletta. Sta prendendo piede l'idea dell'insetto. Vedi che basta parlare un attimo e subito ci si ingolosisce, ti viene l'acquolina in bocca. Ma secondo me l'idea post-estate, no? Ti faccio la dieta proteica con l'insetto, certo. È attecchito. Ma guarda, io rimango della mia ancora. Like però, cara Veronica, caro Leonardo, questo è il momento in cui in i funamboli vogliamo lanciare una nuova rubrica, che è una rubrica nella quale chiameremo le persone, anzi invitiamo anche a scrivere funamboli@radio24.it per raccontare quella volta in cui hanno fatto, come dire, qualcosa... Una furbatina. Un po' l'abusino di prima. Una furbatina. Un po' all'italiana, sì, come dire, no? Tutti noi italiani abbiamo un po' questa caratteristica, no? Di fare un po' i furbi, esatto. Qualche volta. Ci proviamo. Ci proviamo. È la nostra campagna. Defurbizziamoci. Ma sì, vogliamo defurbizzarci. Beh, io per esempio racconto subito, giusto perché non si può invitare gli altri e non fare outing. Allora, io abito a Sesto San Giovanni, che è in periferia di Milano. Per arrivare lì in metropolitana ci vuole una maggiorazione sul biglietto. E quando l'hanno messa all'inizio, ovviamente io utilizzavo il biglietto vecchio. E c'erano i controllori lì, chiaramente. E quando mi hanno beccato ho detto che ero di Torino, che ero lì di passaggio, che non lo sapevo. Ho fatto una super cazzola di quelle. Ma biondo, poi, come sei, potevi spacciarti il tedesco, scandinavo. Ma mi sono un po' vergognato. Dice, ma io abito a 200 chilometri. Abitavo a 200 metri dalla metropolitana. Vabbè, credo di aver frodato allo Stato italiano... €1,50 Sì, 30 centesimi di adesso. Secondo me è stato un po' parco nel racconto. Ma ne fatte di molto, molto peggio di così. Perché e anche si vergogna. Nel fare i racconti siamo un po' furbi. Cioè, perché tu, Leonardo, cosa hai fatto? Allora, io avevo iniziato a frequentare una ragazza di Lecco, che è una cittadina, per chi non lo sapesse, abbastanza vicina a Milano. Questa ragazza era molto bella, forse la ragazza più bella che ho frequentato in vita mia. E per andare da Milano a Lecco c'è una superstrada, una specie di superstrada. Sì. Io, per arrivare velocemente da lei, ho fatto un sorpasso con la doppia linea continua in prossimità di una curva. Anche subito dopo la curva c'erano i carabinieri. Quindi volevano ritirarmi la patente perché era una cosa piuttosto grave. Ma mi hanno riconosciuto, era gli anni d'oro di Zelig. E quindi hanno detto: ah, ma lei è Leonardo Manera di Zelig. E mi dicono: noi non riusciamo mai a venire a Zelig. E io ho fatto la mia furbatina. Ho detto: beh, se volete potrei trovarvi io i biglietti. Non ho nessun problema a trovarvi i biglietti. Anzi, ve li regalo io. Vabbè, è multa. E allora hanno detto: vabbè, allora per stavolta lasciamo stare, vada pure. Multa salvata, ma relazione no. Devo anche dire che quella ragazza dalla quale sono poi arrivato, poi poco dopo si è fatta monaca, è diventata monaca di clausura. Questa è una cosa vera, dopo la mia frequentazione. È vero. Pensa che volevo fare un appello alla ragazza di Lecco per tornare con te, niente. Però Veronica, facciamo così, tu ci dici domani la tua furbata, perché qua vogliamo. Mi sono guadagnata un altro giorno di trasmissione, perché dopo che dopo che vi racconto la mia, via, io non faccio la furba. Intanto vogliamo chiamare un nostro grande amico, l'onorevole Maurizio Bianconi, parlamentare del gruppo Misto. Buongiorno, ciao Maurizio, come stai? Buongiorno, ciao. Maurizio è uno dei furbati in Parlamento, le fa ma non le dice. Per forza, in Parlamento non vanno dette, le fai ma non le dici, no? Però avrà fatto una furbata nella vita, no? Il nostro Bianconi. Guarda, io sono della categoria de furbizziamoli, è un male italiano. Io non sono un furbo, non è che... Ma? Anzi, un po' la valuto un po' la caricatura dell'intelligenza, mi stanno un po' su quegli ombelli, ecco, insomma. Però qualche volta, insomma... può capitare. Cosa hai fatto tu? No, io per la verità in politica la furbizia mai, e non ricordo niente, neanche in professione. Quando facevo calcio la provavo ogni tanto, perché è un mondo un po' strano. Ci vuole, perché è stato vicepresidente dell'Arezzo, o presidente? Sì, presidente... sì, no, vicepresidente operativo. Quindi, dell'Arezzo. E che furbizia hai fatto? Ne ho fatte un paio grosse e ne ho subita una. Dunque, la prima che ho fatto è che tu sai che i giocatori venivano allora, se ho fortuna, senza procuratore a chiedere l'ingaggio, no? Sì. E io avevo un giocatore simbolo della squadra, molto bravo, che poi siamo amici anche ora, e che però non riusciva a giocare che se non a Rizzo, quindi lo vendevo e lui mi tornava a casa. Dicevo, un giorno lo mandavo in Serie A a Cesena, lui mi disse a Cesena che ci vado a fare, a cogliere le mele, cioè era con la mamma da Arezzo, sì fuori. E allora, lo cedette al Como in Serie A, me lo ridettevo subito perché a Como non ci poteva stare, sicché praticamente l'avevo il mio dominio, no? Gli facevo i contratti come mi pareva. Un giorno però gli disse: ma te sei scemo, il Bianconi si da poco qui là, sei giù. Venne e mi chiese una cifrona, mi pare allora 100 milioni netti. Che per la B era tanto anche allora. E io, non avendo possibilità di voler di contestargli la cifra che chiedeva, dopo tanti anni che lo sacrificavo, io gli davo 30-35, non è che gliene davo di più, chiamai il giornalista e gli dissi che non potevo confermare l'ingaggio a questo giocatore perché voleva 200 milioni. Come 200 milioni? Sì, perché il netto è 100, ma il lordo per la società è 200. Quindi io dichiarai che voleva 200 milioni. Era diventato un mercenario. Era diventato un mercenario. Ti puoi immaginare, brutto qui, brutto là, tornò con la coda fra le gambe e firmò. Non mai per una cinquantina. E firmò. Una piccola furbatina che è stata utile, però. Alla fine è stata una utile. Una volta invece un altro giocatore me l'ha fatta. Perché prese un giocatore dalla Fiorentina e veniva a giocare in B. E io però gli dissi che l'ingaggio dell'A non glielo potevo dare, gli avrei dato quello della B. E dice sì, ti do esattamente la metà di quello che ti dava la Fiorentina. Telefonai al direttore generale della Fiorentina, che è ancora oggi un amico, ma che allora mi fregò, e mi disse una determinata cifra. E io gliela dimezzai, e questo venne tutto buono, disse sì, dice va bene. Che io non sapeva, e gli ho neanche dato questa cifra, non sapeva fermo. Neanche. L'altro giorno questo vedo in Facebook che è in vacanza in Calabria, siamo rimasti amici, sposatura da Vespa, e gli ho detto: cavolo, ma te sei sempre in vacanza, grazie ai quattrini che ti ho fregato. Allora, se l'ha messo d'accordo. Ho capito come mai, perché il direttore mi disse esattamente il doppio di quello che mi dava, quindi venne adesso, io gli con davo la stessa cifra che mi dava. Vabbè, insomma, sei stato gabbato. Allora, noi, sai che siccome questa è la campagna Defurbizziamoci, possiamo dire che il nostro onorevole Maurizio Bianconi è stato defurbizzato. Defurbizzato. Maurizio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Qui domani Veronica, preparati perché ci devi dire la tua. Io sono secondo me pronta. Ne ha fatte diverse, Veronica, di furbate. Ne ho varie, però a questo punto ne racconterò una, non oggi, ma domani. Poi decidete tenetevi questa curiosità. Andiamo un attimo al traffico, che siamo quasi poi in conclusione, l'ultima parte della puntata di I Funamboli, tra poco. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta I Funamboli. A Milan, lo sai che è una bella idea quella di fare una trasmissione sulle furberie degli italiani? C'hai una programmazione garantita per almeno 5 anni. Effettivamente. Ha detto sulle furberie degli aliani. Era un mio compaesano. Dai, italiani. È che a Roma dicono così, hanno questo modo di parlare. Degli aliani. Ciao Veronica, come stai? Sembra tutto degli bene? Alieni. Tutto bene. Allora, signori, tra l'altro, non so se avete capito, potete scriverci, anzi, dovete scriverci. No, quella è volta, la cosa fondamentale, certo, che ci scrivano. Quella volta in cui avete fatto i furbetti, scriveteci a funamboli@radio24.it. Testate così il vostro senso del pudore. Fin dove arrivate a poterci raccontare le vostre furbizie? Tra perché... l'altro, secondo me, se avete delle storie belle, potete anche venirle poi a raccontare, magari anche qui se abitate in zona, no? Soprattutto se sono delle belle ragazze, dillo. No, io non cerco più, non cerco assolutamente. Ok, tra l'altro io non lo so, Leonardo, ho pensato a domani, ma in realtà io non riesco a mantenere questa curiosità. Io voglio sapere la volta in cui Veronica ha fatto quella furbizia. Cato, non volevo essere mandata già via oggi dal Sole 24 Ore, invece vengo cacciata. Comunque, eccola. Mi trovavo a Roma, via Ottaviano, in Prati, i romani conoscono, però zona molto centrale, dove ci sono le rotaie del tram e dove non si può assolutamente parcheggiare, divieto di sosta, quindi per carità, anzi, in alcuni tratti non si può nemmeno passare. Però dovevo proprio urgentemente fare una commissione. Quindi ho pensato che se avessi appoggiato un attimo la macchina non ci sarebbe stato alcun problema, tanto doveva essere una cosa rapida, dovevo prendere un paio di calze, quindi... Poi mi sono un po' trattenuta al negozio, insomma, ho perso un pochino di tempo e quando sono uscita... La mia macchina per errore bloccava le rotaie del tram, il tram non poteva passare, c'era tutta la strada bloccata fino a Piazza Risorgimento, cioè alla fine, tutte le macchine dietro, gente che mi voleva linciare, i vigili e il carro attrezzi che cercava di portarvi alla mia macchina. Giusto. A quello ormai era, il più era fatto, il problema era sopravvivere all'ira della gente che voleva linciarmi fisicamente. Mi sono presa gli improperi a testa bassa, cosa ne faccio fatica a fare? Beh, non potevi fare altrimenti. Ma in quel caso con la bustina in mano con i vestiti e la macchina che bloccava il tram, mi sono tenuta la vergogna. Ho fatto la figura della scema e così è andata. Allora, noi abbiamo parlato di tante cose oggi, anche molto serie, abbiamo riso, abbiamo sorriso. C'è un'ascoltatrice, Emanuela da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, buongiorno, benissimo, sì, prego, sì. Emanuela. Sì. Buongiorno, io volevo intervenire in merito al tema degli stupri. Sì, abbiamo affrontato anche questo tema. Più o meno, certo, da immigrati o italiani. Allora, innanzitutto volevo iniziare facendo i complimenti alla Gentile che nel suo primo giorno di lavoro ha scoperto l'acqua calda, cioè che in Italia gli italiani stuprano più degli stranieri. Accidenti, che notizia. Detto Guardi... questo, passiamo alle cose serie. Le cose serie sono un articolo scritto da Maurizio Del Pietro, pubblicato sabato 2 settembre, sulla Verità, il quale sostiene, dati alla mano, che la popolazione maschile fertile composta da non italiani in questo momento in Italia è fatta dal 15% della popolazione maschile totale. Perfetto, questo 15%. L'abbiamo detto, infatti. Perfetto, questo 15% della popolazione maschile fertile non italiana commette il 39% delle aggressioni sessuali. Abbiamo detto anche questo, prima ci ha detto il presidente di Demoscopico. Facendo 2+2, ditemi voi se stuprano più gli italiani o gli stranieri. Va bene. Io capisco che quelli di sinistra farebbero qualsiasi cosa pur di negare la realtà. No, ma qua non c'è di sinistra a destra. Cioè, un po' di sinistra, Veronica. Però la realtà è questa. Va bene, Emanuela, grazie. Lei depositare della verità, siamo Emanuela, felici per lei. Io ho scoperto l'acqua calda, però purtroppo se degli articoli titolano in un certo modo e sembra che gli stupri vengano unicamente fatti da stranieri, è necessario ricapitolare e ribadire il fatto che c'è un'enorme quantità di stupri perpetrati da italiani in un contesto familiare e che la maggior parte degli stupri appartengono al sommerso perché avvengono nelle famiglie da parte dei mariti conviventi e non vengono dichiarati. Mi scusi, io l'acqua calda l'ho scoperta, ma ho bisogno di ribadirla perché ritengo che sia utile. Comunque è bello, vedete come siamo caldi qui ai funamboli. Oh ragazzi, è stata un'irruzione. Abbiamo altre due persone, altri due funamboli. È arrivato il mio personaggio preferito in assoluto di Radio 24. Ecco, adesso io cosa devo dire? Che è Mauro Meazza o Deborah Rosciani? Cominciamo subito mi con... Mi metti in grave difficoltà, caro. Subito, grazie del benvenuto, è proprio... Ovviamente Deborah Rosciani, Mauro Meazza non lo conosco nemmeno, lo vedo qui per la prima volta. Comunque, tra poco... Parte 2 di denari, dopo ovviamente il notiziario delle 11 con due Mauro di denari Meazza. E 5 in studio. Esatto. I microfoni ci sono tutti. 5 e soprattutto studio. Mi piace tanto la tua camicia, Alessandro. Ma Veronica non ha detto niente. Dall'inizio della trasmissione che ci ha persa. Lui si è giustificato dicendo che invece di portarmi dei fiori per la prima puntata si è vestito l'ha portati così. Con la camicia a fiori. Devo dire poi che c'è una continuità nel rinnovamento perché anche nel nuovo orario Alessandro Milan è spettinato, così come era spettinato destinato. Quindi non ha più la giustificazione per il risveglio. I riti sono quelli che fanno le trasmissioni. Il bello è che l'abbiamo chiamati per parlare della loro trasmissione. Ma poi tu dai, 5 secondi ce la facciamo. Borsa, mercati come sempre, i soldi delle famiglie, e tu che cosa porti? Ma anche un pochino di tasse, di burocrazia, di seccature, perché no? Perché ma, no? Ma con leggerezza. Con anzi, la nostra solita autorevole leggerezza. Ottimo, grazie ragazzi. Ma hai visto che nota di eleganza hanno portato in pochi atti? Mi è tutto un altro modo di parlare. In un istante, subito. Bravi, bravi. Io direi che da domani potrebbero condurre dalle 9 alle 11. Li facciamo funambolare anche a loro. Dai, dobbiamo salutare Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi in redazione qui dei Funamboli, che tornano domani alle 9 e 2 di denari dopo il GR delle 11.